I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamento femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte e ciao a tutti. Questa trasmissione è dedicata a Mary Crow Dog, una donna nativa nordamericana, moderna, cresciuta a Sioux ma costretta dalla società a bianchizzarsi. Nata nel 1955 in una baracca nella riserva di Rosebud nel Sud Dakota, Mary Crow non sentiva il bisogno di avere acqua corrente, riscaldamento, elettricità per il semplice fatto che nella riserva non si sapeva neppure che esistessero certe cose che persino i bianchi poveri e i neri dei ghetti davano per scontate. Il primo contatto con l'America bianca avvenne quando fu trascinata a forza in un collegio cattolico per imparare il cosiddetto vivere civile. L'educazione consisteva nell'abbandonare le proprie credenze a forza di punizioni per assumere l'aspetto esteriore della vita civilizzata. Infatti le scuole erano state pensate proprio come una alternativa, tra virgolette, allo sterminio completo della nazione indiana, e la cristianizzazione era solo una morte lenta. Mary fugge dalla scuola. Coinvolta nell'ondata di orgoglio che attraversa le riserve negli anni 70, entra nell'American Indian Movement e partecipa alla storica resistenza contro la polizia nel febbraio del 73 per 71 giorni a Wounded Knee. Nota come il grande atto simbolico, la manifestazione era cominciata perché una giuria aveva assolto dei cowboy bianchi colpevoli dell'omicidio di un ragazzo nativo. Durante l'assedio, Mary conosce Leonard Crow Dog, suo futuro marito, che, considerato il capo del movimento, fu condannato a 23 anni di reclusione, mentre nel frattempo altri amici e parenti morivano in strani incidenti o in sparatorie con l'FBI. Nel 1990 scrive Lakota Woman e nel 93 Oikita Woman, col nome di Mary Brave Bird, libro che è la continuazione del primo, e muore nel 2013. Donna Lakota non è solo l'autobiografia di una giovane nativa americana, ma anche la storia della rinascita spirituale di un popolo e un atto di accusa contro le leggi e la società statunitense. Secondo un proverbio Cheyenne, una nazione non è conquistata finché i cuori delle sue donne resistono. E rientriamo in voce sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, e questa è sempre la trasmissione I Nomi delle Cose. Oggi parleremo di attualità femminista sul tema della cosiddetta maternità surrogata o utero in affitto oppure gestazione per conto di altri. Il tema, come tutti penso sappiamo, al momento è particolarmente dibattuto e sentito a livello nazionale anche, insomma molti media ne parlano dai toni abbastanza isterici. E questo fenomeno, questa pratica per cui una donna porta in grembo un bambino, insomma affronta una gravidanza per conto di conto di altri, o perché questi non possono avere figli, o perché sono una coppia omosessuale, per varie ragioni, insomma. E, si è molto diffusa negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 15 anni, anche perché adesso la tecnologia permette non soltanto di affrontare questa surrogazione di maternità mettendo gli ovuli della madre, che poi appunto, cioè di questa donna, scusate, un lapsus, che sì, porterà in grembo il bambino, ma anche facendo, ricorrendo alla fecondazione in vitro. E, appunto, su questo tema si intrecciano molti problemi, e il dibattito, insomma, isterico che affrontiamo in questi giorni lo dimostrano. Innanzitutto c'è il tema, viene in luce il tema dell'autodeterminazione del proprio corpo, nello specifico del corpo femminile, insomma, che è un tema mai risolto e che penso non si risolverà sicuramente comunque a breve. Poi c'è il tema dell'impatto della tecnologia sia sulla vita individuale che su quella sociale, quindi dei riflessi. E poi c'è il tema invece dei legami che queste sperimentazioni tecnologiche hanno con il sistema produttivo, e quindi questi primi due punti, cioè l'uso del corpo della donna e l'autodeterminazione e l'impatto della tecnologia, vanno necessariamente affrontati in relazione al sistema economico capitalistico in cui siamo calati. Ed è proprio da questo che vorremmo partire, cioè vorremmo sgomberare il campo da alcuni equivoci, nel senso che non useremo in questa trasmissione, affrontando questo tema, alcune categorie che di politico non hanno nulla, ma che sono etiche, morali o via dicendo. Quindi qui non si tratta di prendere posizione a partire dalla propria sensibilità personale e quindi lanciandosi in suggestioni o stigmi del tipo è giusto, è sbagliato, è bene o è male, appunto è morale o immorale, ma per affrontare questo tema, che comunque è complicato, di cui chiaramente non pensiamo di avere la quadra definitiva, per affrontare questo tema però in chiave politica bisogna necessariamente analizzarlo contestualizzandolo in questo sistema produttivo. Quindi ci sembra anche un buon argomento per, diciamo, ridisegnare le coordinate che non devono mai mancare in un'analisi femminista, che voglia essere un'analisi femminista di classe o materialista, anche detta. Certo, tant'è vero che noi ci siamo proprio posti il problema in questi ultimi tempi di ridefinire le coordinate del femminismo materialista, di quello che intendiamo noi come approccio materialista alle questioni di genere, comunque all'esistente tutto, e quindi non ci è sembrato vero avere questo argomento, non perché sia particolarmente importante, ma perché è proprio importante nel dibattito attuale. Bisogna ripartire da quelle che noi consideravamo e consideriamo ancora le coordinate fondamentali, e quindi la costruzione del maschile e del femminile, che sono costruzioni sociali, la differenza tra sesso e genere, e di conseguenza, dato che maschile e femminile sono costruzioni sociali, la costruzione del genere, a differenza del sesso, è una costruzione sociale, di conseguenza la morale, gli usi, i costumi sono costrutti sociali, e oltretutto partendo da questi da queste coordinate di base, dovrebbe essere importante ricondurre qualsiasi tipo di analisi, anche appunto su questa, sul quello che si chiama utero in affitto, a delle coordinate che rifuggano sempre, come diceva Margherita, da impostazioni morali, moralistiche, innatiste, naturalistiche, che si facciano a concetti di natura, di qualcuno che sta sopra o al di fuori di noi e che decide, ci dà le coordinate del nostro vivere, delle nostre decisioni. Selle qabele qataba. E ci pareva particolarmente importante riprendere il filo delle coordinate della lettura materialista, anche perché troppo spesso ci siamo accorte che anche molti compagni, non parliamo di chi non è compagno, di chi comunque ha una visione della vita di un altro tipo che non ci interessa, ma che molti compagni e anche compagne, mentre hanno chiara la lettura materialista quando affrontano delle questioni come lo sfruttamento sul lavoro, anche l'internazionalismo, anche i rapporti capitale lavoro in generale, o comunque sfruttamento nazionale, internazionale, questioni dei conflitti interni, dei conflitti esterni. Quando si tratta di affrontare le questioni di genere, ci siamo accorte che molto spesso le coordinate vengono perse, si perdono le coordinate capitaliste, le coordinate materialiste, e si fa di nuovo riferimento ed appello a, appunto, a innatismo, a morale, a questioni biologiche, a riferimenti naturalistici, anche senza accorgersene, e questo, diciamo, riteniamo che sia un problema da sciogliere. Me guarda mañana es convivencia de sueños vivencia paciencia de un consecuencia resistencia de extravagancia. Es convivência de senhores vivência, paciência de uma consequência, resistência de uma extravagância. Angola, Angola, oi, força, minhos catamata, o meu corpo abanhaca. E quindi con queste coordinate di fondo svolgeremo questo approfondimento, appunto, sul tema attuale della gestazione per altri, analizzando prima il quadro giuridico legale in cui questo fenomeno si dispiega, e quindi le varie normazioni, la differenza tra i paesi, eccetera eccetera, e poi dopo un brevissimo accenno, diciamo, ad alcuni dati statistici, ad alcune ricerche eccetera, entreremo invece nel vivo della parte che più ci interessa, cioè nel dibattito che questo fenomeno ha scatenato nel mondo del femminismo, sia quel femminismo a cui io toglierei volentieri questo termine, che noi abbiamo tante volte chiamato mainstream, oppure emancipazionista, socialdemocratico, neocolonialista, chi più ne ha più ne metta, e sia anche però nel femminismo, insomma, in cui ci riconosciamo, che ha una tensione rivoluzionaria, che quindi vive negli ambiti di movimento anche. Certo. Quindi, partendo dal quadro legale, è una notizia di pochissimo tempo fa che nel 17 dicembre del 2015 è stato approvato a Strasburgo, cioè il Parlamento europeo ha approvato a Strasburgo questa relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014, riferita all'anno 2014, e sulla politica dell'Unione Europea in materia. Hanno inserito in questa relazione annuale questo articolo 115, che è stato chiaramente approvato da parte di tutte le destre europee, ma anche in realtà dal Partito Democratico, chiaramente si inserisce, non è una contraddizione. Però di questo articolo 115 così recita: l'Unione Europea condanna la pratica della surrogazione, che compromette la dignità umana della donna dal momento che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usati come una merce. Ritiene che la pratica della gestazione surrogata, che prevede lo sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano per un ritorno economico di altro genere, in particolare nel caso delle donne vulnerabili nei paesi in via di sviluppo, debba essere proibita e trattata come una questione urgente negli strumenti per i diritti umani. Thank you. Diamo un attimo, proprio dal punto di vista legislativo, facciamo un attimo una panoramica su come sono messe, come è messa la questione negli altri paesi. Allora, negli Stati Uniti sono 8 gli stati in cui è legale ricorrere alla surrogazione di maternità. Poi c'è l'India, che ha un processo in cui il processo di gestazione surrogata è legale ed è proprio un costo, ha un costo codificato che oscilla tra i $20,000 and $40,000, e la legislazione di questo paese è molto flessibile, cioè è approvata ufficialmente la maternità commerciale. Poi l'Ucraina, in cui la maternità surrogata, compresa quella commerciale, è pienamente legale. Poi la Grecia. La Grecia ha avuto legittimazione legale nel 2002, diciamo che ha delle regole specifiche, dei vincoli, comunque in fin dei conti è legittimamente legale. La Russia, la maternità surrogata, inclusa quella commerciale, è legale. Poi in Spagna. Allora, in Spagna in effetti non c'è cioè non è permessa la pratica dell'utero in affitto. Diciamo che ci sono tutta una serie di codificazioni sull'affidamento del bambino nato da una surrogazione, e quindi a seconda di come fanno richiesta, cioè una serie di escamotage per poi rendere possibile in effetti la paternità e la maternità rispetto a questo bambino dei genitori. Nel Regno Unito invece anche lì ci sono tutta una serie di vincoli che impongono dei tempi. Per esempio, la gestante che ha portato avanti la pratica dell'utero in affitto non può dare il consenso al trasferimento fino a 6 settimane dopo la nascita. È come se ci fossero dei tempi di ripensamento, no? che la donna deve avere. Poi i richiedenti devono essere sposati, poi la gravidanza non può essere dovuta a un rapporto sessuale. Cioè ci sono tutta una serie di cavilli, codificazioni, eccetera eccetera, per mettere alcuni paletti, però insomma di in un modo o nell'altro poi è una pratica che si può portare avanti. E quindi da questa panoramica emerge innanzitutto che c'è una grossa ripartizione, una prima grande ripartizione tra la maternità surrogata, diciamo, a titolo gratuito, e la maternità surrogata invece a pagamento, per cui ci sono appunto anche delle differenze tra i paesi che la accettano in tutte le sue forme e i paesi in cui invece è possibile ricorrere alla surrogazione soltanto se la madre surrogata lo fa per spirito di liberalità, e i paesi invece in cui può ottenere un compenso economico. E questo chiaramente, come poi vedremo anche dopo entrando nel vivo del dibattito, è l'argomento principale, diciamo, su cui poi si insiste per cercare di vietare anche per legge il ricorso a questa pratica. Sì, perché si considera, per esempio, appunto, nel Regno Unito bisogna dimostrare che non c'è stato nessuno interscambio di denaro, no? Esatto, ed è tra l'altro, per inciso, la stessa cosa che un documento molto interessante che viene fuori dall'associazione di veronesi, che al momento non mi ricordo come si chiama, l'associazione di studio, sì, di veronesi, che si è dichiarata a favore della maternità surrogata, innanzitutto perché parte dal presupposto che, essendo la sterilità in aumento, questa sarà una pratica a cui per necessità si ricorrerà sempre di più. E allora da questo loro ne traggono un giudizio morale, definendola come accettabile, però dicendo per evitare la mercificazione delle donne eccetera eccetera si dovrebbe impedire un ricorso economico, anche se uno studioso dello stesso centro dice: però quando le donne che hanno bisogno, insomma, di ricorrere a questo strumento per soldi, cioè dovremmo diciamo, aprirci alla possibilità di un corrispettivo, perché è meglio della prostituzione, dare il proprio utero in affitto è comunque meglio della prostituzione. Quindi tra gli studiosi anche del centro di Veronesi c'è questa bellissima... D'altra parte Veronesi si è distinto nell'arte dei trapianti, e quindi su questo io almeno personalmente stendo un velo pietoso. Esatto. E invece il panorama in Italia è diverso, nel senso che la gestazione per altri è vietata dal 2004, quando è stata varata la legge 40 sulla fecondazione assistita, che punisce con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 600.000 a 1 milione di euro chiunque la realizza, la organizza o la pubblicizza. Quindi che cosa succede in Italia? Che molte coppie italiane che non possono avere figli vanno all'estero, come al solito, nei paesi in cui è consentito. E allora qua si è posto il problema, diciamo, del nostro ordinamento, della riconoscibilità del legame genitoriale tra il bambino che nasce da un'altra madre, diciamo, dalla donna appunto che porta avanti la gravidanza, e i genitori per conto dei quali è portata avanti la gravidanza. E in questo senso c'è stata una ormai c'è, diciamo, un po' di giurisprudenza e le cose sono evolute. Incominciano più o meno le sentenze nel 2011, il fenomeno è estremamente recente, e all'inizio si perseguiva l'alterazione, cioè si perseguivano le coppie che ricorrevano alla surrogazione in altri paesi per il reato di alterazione dello stato di famiglia, perché si ritenevano falsi gli atti di nascita che riportavano come genitori quelli cosiddetti intenzionali e non la madre surrogata che aveva partorito il bambino. Poi però si è cambiato, si è capito che se la legge locale, ad esempio vado in Ucraina, vado in Spagna eccetera, prevede la gestazione per altri, allora il certificato è autentico perché segue le regole del paese che lo emette. Certo. E praticamente adesso invece nel 2013 si è arrivati più o meno quasi sempre a sentenze di non luogo a procedere o addirittura di assoluzione. E dopodiché è interessante che la paura, diciamo il timore più grande dei genitori e delle coppie che hanno fatto ricorso alla maternità surrogata in altri paesi era quello addirittura che gli venisse tolto il bambino in Italia. E questa cosa fondamentalmente non si è quasi mai realizzata, se non che quando in Italia il bambino è stato messo in adozione. Ah. In una sentenza la Corte dei diritti dell'uomo, la CEDU, ha condannato l'Italia perché, diciamo, questa cosa non avrebbe potuto deliberare in questo senso, e quindi ha stabilito che ogni paese ha il diritto di vietare la surrogata, ma che l'Italia in questa vicenda ha usato il bambino come mezzo per pulire i genitori. Certo. E quindi ha ribadito che il bambino può essere tolto ai genitori soltanto se la madre e il padre sono inadatti, ma non come pena accessoria. Certo. Su questo si potrebbe aprire un altro argomento che fronte forse sulle pene accessorie. Sulle pene accessorie, no? Perché per esempio adesso c'è il prefetto, mi sembra di Firenze o di Bologna, che ha detto che per i genitori che occupano la sanzione potrebbe essere quella che sì, gli siano tolti questa, i figli. Questa è una cosa che viene ventilata da molto tempo e che viene già detta dalle cosiddette forze di polizia, ma soprattutto dai servizi sociali che stanno diventando sempre più servizi di gendarmeria associata, quando vanno a effettuare gli sgomberi o quando vanno nelle occupazioni, per cui i genitori vengono definiti cattivi genitori. Certo. To come, yes I do. Oh, your constitution, well my friend, it's gonna have to bend. I'm here to tell you about the destruction of all the evil, it will have to end. Per finire questo primo inquadramento, diciamo, giuridico legale, ci siamo scordati di dire che chiaramente in Italia adesso questa maternità surrogata e il destino della maternità surrogata è legato al destino delle unioni civili, nel senso che hanno inserito nel disegno di legge presentato per l'approvazione e il riconoscimento delle unioni civili e quindi anche dei matrimoni omosessuali eccetera questo tema, e quindi si sta un po' confondendo le acque, nel senso che se diventa una scelta, un pacchetto completo, per cui se sei a favore delle unioni civili allora sei a favore, devi essere a favore anche della maternità surrogata e viceversa. Fanno spessissimo questo tipo di collegamento, non necessariamente sulla maternità surrogata, ma di solito mettono insieme delle norme o comunque delle ipotesi, sì, sì. No? Perché se non passa una, non passa neanche le cose eccetera, esatto. Risalva Banca Italia, esatto, messi, no? Insieme perché... Ah, ecco, certo. Perché così. E per finire, comunque, dicevamo appunto che quindi, visto che alcuni paesi vietano per legge il ricorso alla maternità surrogata, molte persone viaggiano, diciamo, e si spostano nei paesi in cui questo è consentito. C'è un cosiddetto shopping giuridico, diciamo, per cui vai appunto nel paese. Da questo punto di vista, la Thailandia, in cui evidentemente c'era un forte uso della maternità surrogata da parte, certo, di cittadini stranieri, ha vietato, tanto da come dire, guadagnarsi il soprannome di utero dell'Asia. Adesso invece hanno presentato una legge che si propone di contrastare duramente questo fenomeno, consentendo però alle coppie thailandesi o a quelle nelle quali uno dei partner è thailandese di continuare a poter fruire di un eventuale utero in affitto, purché appartenga a una donna che abbia più di 25 anni. Queste sono, come si diceva prima, le varie così regolamentazioni. I've got my stick. I've got my stick now. Do your thing. Do your thing now. Whenever you can. Whenever you can. When you must. When you must now. Do take your stick. Do take your stick. Trees, their strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging. Prima di passare al vivo, diciamo, del dibattito che questa questione ha scatenato e scatena nell'ambito del femminismo, facciamo un rapidissimo cenno ad alcuni dati statistici e diciamo allo stato della ricerca scientifica e tecnologica, visto che questo è l'altro grande tema di cui si discute. E allora, come dicevamo anche prima, il ricorso alla maternità surrogata si è intensificato, anche perché le statistiche riguardo alla infertilità stanno notevolmente crescendo. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'infertilità è un problema che colpisce il 15-20% delle coppie eterosessuali. Questo significa che su scala mondiale sono infertili circa 50-80 milioni di soggetti tra uomini e donne. A partire da questo dato, quindi, diciamo, anche la ricerca tecnologica si è sviluppata di conseguenza per sopperire a questo piccolo problemino che la società industriale e capitalistica ci ha procurato. diciamo, apprendiamo da questo punto di vista, però è interessante notare la selettività di questa ricerca scientifica, perché in realtà il corpo della madre surrogata, cioè la madre surrogata come paziente di quello che è a tutti gli effetti un trattamento medico, perché per certo. poter surrogare la maternità devi sottoporti a una serie di esami molto invasivi che di solito una maternità cosiddetta, insomma, fisiologica non prevede. Però il corpo della madre surrogata, nonostante quest'uso massiccio di ormoni, farmaci eccetera, non è mai al centro della ricerca scientifica. Quindi la madre, una donna che decide di ricorrere alla maternità surrogata, in realtà non ha grosse informazioni circa i possibili rischi che può affrontare, che deve affrontare. Infatti il consenso informato dovrebbe essere il presupposto per la legittimità dell'attività medica, no? Per cui nessuno può essere sottoposto a trattamenti medici contro la sua volontà, a parte il fatto che questo è un articolo della nostra Costituzione, ma comunque dovrebbe essere un problema di buon senso e di correttezza, no? Allora, è vero che questa regola è codificata a livello internazionale e quindi qualsiasi tipo di intervento, qualsiasi tipo di terapia invasiva o no, dovrebbe avere bisogno dell'assenso dell'interessato. Però qui entra in gioco un problema, cioè viene detto l'assenso deve essere consapevole. Cioè deve essere preceduto da un'adeguata informativa riguardo alle caratteristiche, ai rischi, alle finalità dell'intervento, e il paziente è sempre libero di ritirarlo in qualsiasi momento. Che cosa succede? Che qui entra in ballo quella che viene definita la libertà di scelta in questo tipo di società, no? Per esempio, uno degli articoli che abbiamo letto dice alla fine: tutti quelli che si appellano alla libertà di scelta della madre surrogata dovrebbero contestualmente porsi il problema della consapevolezza di questa scelta. Non esistono scelte libere che non siano anche consapevoli, e non è possibile nascondersi dietro il concetto di libertà quando allo stesso tempo si fa in modo di limitare la consapevolezza di chi è chiamato a compiere quella scelta. E fin qui siamo d'accordo. Però ci dimentichiamo sempre, ci si dimentica sempre, si fa finta di dimenticare sempre dove stiamo messe, cioè che noi siamo messe all'interno di questa società, e il dibattito è all'interno di questa società in cui siamo calate. E mai come la società capitalista nessun'altra configurazione socio-economica è riuscita a ridurre a merce qualsiasi cosa e a mettere al lavoro ogni aspetto della vita. Dopodiché, questo stiamo sempre parlando della libertà di scelta, quindi anche quando parliamo di lavoro qualsiasi che noi abbiamo scelto, di qualsiasi scelta libera, tra virgolette, che noi abbiamo fatto in questa società, ci dobbiamo sempre ricordare che cosa significa una libera scelta in questa società. Cioè io scelgo un lavoro per libera scelta, mi viene quasi da ridere, voglio dire, no? Perché... E poi ci dobbiamo ricordare di un'altra cosa, che il lavoro di cura e il lavoro riproduttivo sono lavori a tutti gli effetti, cioè troppo spesso ci si dimentica di questo e si tenta di relegare il lavoro di cura e il lavoro riproduttivo in ambiti affettivi, in ambiti diciamo morali tra virgolette, di dedizione. Il lavoro riproduttivo non è un lavoro, è il famoso mettere al mondo un bimbo, le famose manine, i famosi piedini, il famoso senso materno, no? Tutte queste cose. Mentre il lavoro riproduttivo, noi facciamo sempre riferimento alla famosa analisi materialista e le coordinate materialiste da cui siamo partite, è un lavoro a tutti gli effetti, è una capacità che ha il sesso femminile, chiamiamolo così, come capacità biologica, però poi l'uso che viene fatto di questa capacità è un uso politico e sociale, quindi non ci dobbiamo mai dimenticare questo. E quindi ci scandalizziamo quando viene messa cioè quando il corpo viene messo al lavoro e per produrre una gravidanza su commissione, però non ci scandalizziamo affatto, non so, la domestica che va a fare i servizi e che pulisce la sporcizia dei ricchi, e questo ci sta bene, non solo non ci poniamo nessun problema, cioè proprio non ci passa neanche per la mente che questo servizio a pagamento di pulire la sporcizia di qualcosa, di qualcun altro, è chiaro che è relegato a delle soggettività deboli come genere e come classe. Sempre sul, per rimanere sul tema della maternità, non ci scandalizziamo neanche delle badanti e di tutte quelle donne che lasciano i propri figli per accudire i figli di qualcun altro. Questo certo, non viene messo a tema, no? O comunque è sempre buttato lì. Il massimo che queste donne possono ricevere non è la nostra solidarietà di classe, ma semmai un po' di pietismo e una vittimizzazione, però non c'è mai una critica radicale al sistema produttivo che quindi consentirebbe di rivedere, certo, diciamo, questo fenomeno. Perché poi ci dobbiamo anche sempre ricordare che è vero che, come è vero che l'utero in affitto è una pratica che poi viene assunta dalle donne povere e che colpisce le donne povere e le donne del terzo mondo. E in particolare perché sommano l'essere donne e l'essere povere e l'essere del terzo mondo, e quindi le classi subalterne in generale. Però ci dobbiamo sempre ricordare che per loro il corpo è anche una risorsa economica, cioè è lo stesso discorso che si può fare per la prostituzione. L'uso del proprio corpo come fonte di guadagno in senso lato, noi dall'alto del nostro essere occidentali, classe e dominante, ci permettiamo di pontificare sull'uso del corpo che fa una donna rispetto a una possibilità di una transazione in denaro. È chiaro che noi siamo sempre, ricordiamoci sempre, che noi siamo messe in questa società. Quindi da che pulpito può venire una predica che di fatto ha dei risvolti poi alla fine moralisti? Lips that suits my taste, and your fingertips. ceases from now on. And listen, if you can't say anything real nice, it's better not to talk at all. That's my advice. We're parting, you go your way, I'll go mine. It's best that we do. Here's a kiss, I hope that this brings lots of luck to you. Makes no difference how I carry on, just don't you talk about me when I'm gone. Dopo questa breve pausa musicale ritorniamo in voce, siamo sempre su Radio Onda Rossa, sempre gli 87.9 e questa è la trasmissione I Nomi delle Cose. Stavamo affrontando il tema della maternità surrogata, abbiamo fatto un inquadramento sia dal punto di vista giuridico legale nei vari paesi, sia diciamo le coordinate entro cui noi che qui trasmettiamo ci muoviamo per affrontare questo tema, e adesso vorremmo entrare nel vivo del dibattito che si è scatenato all'interno del femminismo su questo tema. E diciamo che i nodi attorno a cui il dibattito si svolge, che ha una matrice fortemente ideologica e moralista, per cui è difficile trovare dei contributi che stimolano veramente l'analisi, si svolge. Però i nodi sono chiaramente il problema della regolamentazione per legge di questa pratica, da molti auspicata per evitare che si ricacci, diciamo, questo fenomeno nella clandestinità, con tutti i problemi che comporta dal punto di vista delle tutele, della garanzia sia della salute, insomma, che di altre tutele giuridiche. E poi, insomma, appunto, qualche contributo invece riesce a contestualizzare questa pratica all'interno diciamo del sistema produttivo, e quindi parte dall'assunto che c'è un legame, un'interconnessione funzionale e strutturale tra lavoro produttivo, diciamo in senso stretto, e lavoro riproduttivo. E quindi, partendo da diciamo i contributi terribili che il femminismo, che noi abbiamo sempre appunto nominato socialdemocratico o neocolonialista o suprematista, potremmo dire, oppure emancipazionista, eccetera eccetera, e è veramente un tesoro l'intervento che ha fatto su questo tema Luisa Muraro. E praticamente dice che non esiste un diritto ad avere figli a tutti i costi, e la pratica della maternità surrogata in realtà non è neanche schiavitù, perché definire schiave queste donne è retorica che copre il mercimonio. Non capisco qual è la contraddizione tra schiavitù e mercimonio, però ce lo dirà lei. Viviamo in una situazione in cui il mercato ammette che si possa trasformare 9 mesi della vita di una donna in merce. Perché a lei non la sconvolge che tutta la vita di una persona sia trasformata in merce, ma tutta 9 mesi. Tutta la vita di una donna è trasformata in merce continuamente. Però la maternità e la gravidanza è uno specifico che deve essere trattato a parte. Non ha nessun legame con tutto il resto. Continua: la cultura neoliberista si impadronisce delle conquiste femminili, facendo passare il profitto per libertà di scelta. 40 anni di lotte hanno sganciato le donne dalla subordinazione, trasformando i rapporti tra i sessi. L'utero in affitto non è un diritto e non è una libertà. È come dire che la prostituzione è sempre una libera scelta. È menzogna. Chi si sente libera lo fa e non chiede diritti. Questo è quello che dicevamo prima, no? Esatto. Assurdo, cioè, come si fa a fare questo tipo di discorso rispetto al corpo, rispetto alla donna, rispetto alla maternità, in una società in cui tutto tutto è mercificato, compreso quello che lei sta dicendo in questo momento. Ma soprattutto non capisco da dove prende, cioè perché i movimenti delle sex worker non rivendicano la possibilità di accedere all'assistenza sanitaria, la possibilità di avere le stesse tutele degli altri lavoratori e delle altre lavoratrici. Cioè, dove vive lei? Chi decide di prostituirsi per libera scelta, sempre con tutte le pinze, le virgolette? Ma con tutte le pinze della libera scelta di una che fa la maestra d'asilo, con tutte le pinze di libera scelta di una che va a fare, non dico la badante, ma la cameriera in un bar della stazione Tiburtina. No, secondo lei invece queste donne che decidono appunto di trarre guadagno dal proprio corpo non rivendicano i diritti, e infatti dice che legalizzare la prostituzione serve solo a dare garanzie agli sfruttatori. Vabbè, andando avanti, anche legalizzare il lavoro subordinato è una garanzia per i capitalisti, cioè basta. Sì, però che, questo basta è sempre intendersi. Esatto, basta intendersi, però invece queste sedicenti femministe fanno, cioè isolano la questione del corpo femminile, tutto quello che riguarda la donna, certo, da qualsiasi da altra cosa, no? Quindi certo, deve essere affrontato in termini perché assoluti. Poi lo riducono a un problema morale, si ritorna sempre facendo tutto il giro della la ricerca dell'autonomia e della libertà femminile a farne un problema morale. Però adesso in questo passaggio veramente la Muraro è eccellente, perché dice: ci sono cose sgradevoli e contrarie alla civiltà e altre che la favoriscono. La relazione materna è una di quest'ultime. Ed è per questo che va custodita, eccetera. Allora, prima di tutto cominciamo a dire che cos'è la civiltà, quale civiltà, cosa significa una roba favorevole alla civiltà. Lei si permette di utilizzare queste macro categorie proprio così, come snocciolandole, buttandole lì sul tavolo, perché tanto lei è la Muraro, e addirittura arriva a dire che questa pratica, insomma, che fa passare per donazione quella che invece è una compravendita, secondo lei ha a che fare con l'invidia maschile della fertilità femminile. Quindi lei sostiene, in poche parole, che la maternità fisiologica, naturale, eccetera eccetera, deve essere difesa a tutti i costi, sempre, comunque, nessun aiuto tecnologico, medico, eccetera, per nessuna ragione al mondo, che va vietato per legge, perché la donna è prima madre. Prima di essere donna è madre e deve rivendicare l'essenza della donna e la maternità. L'essenza della donna e la maternità, questa maternità è l'essenza della civiltà, e dunque se noi non difendiamo la donna in quanto madre, solo in quanto madre, alla fine finiremo per avvantaggiare gli uomini, che hanno a questo punto l'invidia dell'utero, quella che un tempo era l'invidia del pene, adesso è l'invidia dell'utero. Fondamentalmente da questo articolo si evince che il corpo della donna, la maternità, viene completamente sacralizzata, è una cosa assolutamente, un'esperienza mistica, un'esperienza di civiltà, eccetera, a cui tutte le donne devono accedere. Quindi una donna che consapevolmente decide di non avere figli avrà avuto qualche problema nella sua vita, qualche trauma, però comunque è meno donna, eccetera eccetera. E quindi da questo diciamo, la conseguenza di questa sacralizzazione in realtà poi va a finire che fa il gioco di questo sistema capitalistico e patriarcale, perché rispinge e ricaccia le donne nel loro ruolo materno, quindi alla fine per essere riconosciuta che poi come è statura, quello che sta facendo il neoliberismo, perché il neoliberismo sta mettendo in atto i due binari, cioè la donna emancipata che può permettersi determinate cose e la donna che deve rientrare nei ranghi, no? Le famose femministe casalinghe degli Stati Uniti d'America, dove vengono respinte le donne, o la famosa osannare, cosa che succede tutti i giorni in tutte le pubblicità che passano per la televisione, la mamma giovane disponibile con i bambini e che è diventata di nuovo cosa che però 10 anni fa invece non diciamo non era propagandata, perché no, le esigenze produttive spingevano in un altro senso. Certo. Adesso c'è bisogno di ritornare a fare figli, di crescere demograficamente, diciamo di svecchiare il paese, eccetera, eccetera, di mettere a servizio la manodopera qualificata, non so dove, perché. E quindi diciamo la solfa cambia. Comunque questa la Muraro, come ad esempio le Se non ora quando, no? Questo non riesco a chiamarlo movimento, non so, questa lobby. Sì, di, esatto, di, forse il termine esatto. Mi sembra il termine esatto. Ha fatto un bel comunicato appunto per, tra l'altro rispondendo a una chiamata dei cattolici, no? Cioè per esempio una di Nolfi, quando al comunicato del Se non ora quando ci si è buttato a pesce dicendo le femministe stanno dalla nostra parte, perché Se non ora quando ha detto la maternità surrogata è un abominio, è orrorifico, sempre con questi termini, no? Intriside, cioè, che sono demoralismo, propri dei cattolici integralisti, tra l'altro, propri dei cattolici integralisti. Ha detto la maternità surrogata in Italia deve essere vietata, ma deve essere vietata in tutto il mondo, è un abominio. Chiaramente qui, quindi queste donne hanno una posizione anche fortemente autoritaria, no? Perché decidono loro per tutte le donne cosa è consentito e cosa è moralmente cosa accettabile. Cosa bene e cosa male. D'altra parte sono loro che hanno diviso le donne in donne per bene e donne per male. Esatto. Sono state antesignane. Però da questo punto di vista in realtà questo dibattito si sta mostrando abbastanza proficuo, perché non solo, vabbè, c'è una scissione interna a Se non ora quando di cui ci interessa poco parlare, perché insomma vedremo dove vogliono andare a finire a parare quelle che si sono scisse da queste, sì, posizioni, però al momento ce ne, certo, disinteressiamo. Però in realtà grazie a questo dibattito Se non ora quando, come tutte le altre appunto patriarche, chiamiamole così, questa lobby di patriarche sta gettando un po' la maschera, no? Diventa, certo, evidente quasi a tutti. È un po' la stessa cosa che abbiamo visto succedere anche quando abbiamo parlato dei fatti di Colonia, perché dall'articolo, certo, così tremendo dell'Annunziata alla fine sono usciti fuori per esempio commenti di compagne che hanno individuato giustamente in questo tipo di discorso sedicente femminista uno dei grossi problemi da affrontare, certo, no? Cioè un nemico abbastanza diretto con cui, sì, sì, sì, è riconoscere il nemico è uno dei primi passi per poter percorrere percorsi di libertà, eh? E infatti da questo punto di vista ho trovato interessante una mail che è arrivata al blog Abbatto i Muri di una ragazza, immagino molto giovane, che dice appunto proprio grazie a questo dibattito sulla maternità surrogata mi sono resa conto di essere stata strumentalizzata dal movimento Se non ora quando e mi rendo conto di quanto autoritarismo, bigottismo ci sta in quelle donne. Infatti dice che quella, la prima manifestazione di Se non ora, sì, quando, sì, a Piazza del Popolo, sì, era stato il suo primo approccio al femminismo, o presunto tale, specifica. Dice ero giovane e confusa e credo che sia stato l'anti-berlusconismo a spingere tanti di noi in piazza, e ha proprio ragione. Ha proprio ragione, è questo. Infatti, è stato strumentalizzato l'anti-berlusconismo in questo senso. È stato, ma l'anti-berlusconismo infatti non poteva produrre di peggio che, cioè il berlusconismo non poteva produrre qualcosa di peggio dell'anti-berlusconismo, perché proprio. E dice certo adesso mi rendo conto che la nostra ostilità era male indirizzata, che ci prestavamo ad un gioco ugualmente sessista, cioè quello di giudicare le donne anche se da un punto di vista diverso, giudicarle e moralizzarle. Certo. Se ci penso ora provo vergogna per la pena che provavamo per le olgettine e rubi rubacuori, perché avremmo dovuto provare pena per quelle donne eppure la provavamo. Provo ugualmente vergogna per tutte le battutine su quanti presunti pompini doveva aver fatto quella tal persona per occupare una carica pubblica. Lei dice non mi fraintendere, politicamente il berlusconismo insomma continua ad essere da un'altra sull'altra sponda rispetto a dove sto io, ma noi ci siamo prestate ad un gioco discriminatorio, moralizzatore. Abbiamo vestito i panni del patriarca per dire agli altri cosa dovevano fare con il loro pene e la loro vagina. In un mondo dove si muore raccogliendo pomodori e si guadagnano 4 soldi per lucidare l'argenteria o cambiare i pannolini, viene considerato un obbligo o cambiare i pannolini viene considerato un obbligo a cui ti devi rassegnare anche quando non lo desideri affatto. Che cosa c'è di male se una donna pensa che vivrà e guadagnerà attraverso l'uso del proprio corpo? La carrellata di contributi che abbiamo trovato in rete e che speriamo sia stata interessante, volevamo leggere alcuni estratti di un articolo pubblicato su InfoOut che parla in generale dell'influenza della tecnologia sulle strategie capitalistiche e quindi anche di conseguenza sulle lotte, e che dedica proprio un punto a parte alla maternità surrogata. Quest'articolo, diciamo, gode del nostro apprezzamento perché innanzitutto parte dal ricordare che il luogo base per la riproduzione della forza lavoro non è né l'università e nemmeno l'ospedale di cui ha trattato prima, ma la famiglia. Quindi riprende tutto quel filone, diciamo, di Dalla Costa, Federici, eccetera, tutto quel filone di femminismo materialista, che appunto ha dimostrato, ha messo in luce la correlazione che c'è tra il lavoro di produzione e il lavoro riproduttivo, no? Quindi con slogan che sono rimaste a tutte quante noi impressi, come la catena di montaggio inizia dal lavello della cucina. Sì. Oppure... Donne non partorite figli ma partorite idee. Passava infatti anche per un rifiuto della maternità. Non un rifiuto tout court, diciamo che era proprio l'affermazione della maternità come scelta e non come destino, certo, della donna, non come essenza intrinseca della femminilità a cui, certo, tutte quante dobbiamo piegarci. Giustamente però l'articolo sottolinea anche che questo movimento di riottura, come tantissime altre rotture e rivendicazioni sono state poi assunte, digerite e rielaborate, no, dalla struttura capitalistica, per cui effettivamente in parte il rifiuto delle donne della maternità si è poi concretizzato in una messa al lavoro, in uno sfruttamento di quelle stesse donne che sono andate a lavorare fuori di casa, no? Certo. Quindi è una cosa che comunque ha origine all'inizio del Novecento, per cui anche le prime femministe, non proprio femministe, però anche alcune socialiste, no, dicevano proto-femministe fuori, e si è usciti da casa, però la donna si è ritrovata sotto padrone, forse a stare ancora peggio di quanto stava sotto marito a casa. E questo è vero, però adesso dice i tempi sono cambiati. Per come sono degradati i servizi di welfare, la ripresa del ruolo femminile tradizionale come prestatrice di cure volontarie per bambini, malati e anziani diviene centrale nella prevenzione della totale disgregazione sociale. In questa campagna per la ridomesticizzazione delle donne, le truppe d'assalto del capitale sono state provviste di un movimento anti-aborto patriarcale e fondamentalista. E l'associazione tra guerra di classe dall'alto e l'offensiva del diritto alla vita non è accidentale, ma riflette una logica politica economica, cioè il desiderio del capitale di riassicurarsi la sua fonte di lavoratrici della riproduzione non pagata. E adesso arriviamo al punto sulla maternità surrogata, cioè dice: in questa strategia di produzione adesso il capitale gode anche di nuovi strumenti che sono appunto quelli tecnologici. Certo. E quindi parla di tecnologia della riproduzione e dice: il business della madre surrogata è il grado massimo di lavoro del settore dei servizi femminili. Certo, è un settore di servizio, infatti è un settore di servizio. È un settore di servizio. E vabbè, ovviamente dice la madre che si presta, cioè la donna che si presta a queste cose è sottoposta a delle cure farmacologiche incredibili, a degli esami invasivi, non ha la certezza, cioè critica, diciamo, questo stato della scienza abbastanza incerto, eccetera eccetera. E poi però va proprio sulle lotte, nel senso sui movimenti femministi che si oppongono a questo tipo di pratiche, e mette, diciamo, porta all'attenzione un movimento che alcune cose che non conoscevo. Cita per esempio il Feminist International Network of Resistance to Reproductive and Genetic Engineering, secondo cui, diciamo, queste tecnologie, la tecnologia riproduttiva è in sé dominativa e quindi si deve mirare alla completa interdizione del loro sviluppo, salvo indirizzarla verso, diciamo, le cause sociali e ambientali del ricorso alla maternità surrogata, cioè ad esempio l'infertilità. Quindi dicono: questo uso della tecnologia investiamolo per capire da dove viene questo problema, non per mettere appunto a profitto il corpo delle donne. E però dice: ci sono però altri gruppi che credono che, per quanto l'attuale controllo patriarcale e aziendale renda queste tecnologie nemiche delle donne, è possibile piegare la loro traiettoria in direzioni più positive. Soprattutto questi altri gruppi femministi sostengono che le posizioni del network che citavamo prima sono in realtà pericolose, nel senso che hanno, diciamo, dimostrano un'incapacità di costruire legami tra femministe non salariate e forza lavoro sperimentale dell'industria delle tecnologie riproduttive. E questo ci è sembrato un nodo dirimente e fondante, perché effettivamente, per quanto possa essere criticato appunto questo istituto della maternità surrogata e questa pratica come mercificazione del corpo della donna, come nuova frontiera dello sfruttamento, come nuovo strumento per controllare il lavoro di riproduzione, è anche vero però che diciamo stigmatizzare, criminalizzare il ricorso che alcune donne fanno alla, diciamo, maternità surrogata dal punto di vista, cioè che si accollano la gravidanza per conto di terzi, in realtà effettivamente finisce per recidere i legami di solidarietà che invece andrebbero intrecciati, perché io voglio parlare con quelle donne, voglio capire, diciamo, dobbiamo certo. giungere insieme a capire quali sono le cause di questo ricorso, cioè del ricorso a questo strumento, e mettere in discussione questo sistema insieme. Di certo non vado a costruire legami di solidarietà con chi criminalizza con quelle donne. Perfetto. Allora, vi ricordiamo, siamo in chiusura, vi ricordiamo che questa radio non vive d'aria e quindi ha tantissimo bisogno di essere finanziata, di avere il vostro aiuto, e quindi potete andare sul sito www.ondarossa.info e trovare tutti i modi per finanziare la radio e per aiutarci a continuare a trasmettere. E in chiusura finiamo con la parentesi, vi salutiamo e con la fine della parentesi rimanderemo la sigla. La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte e ciao a tutti. I nuovi mostri. Una volta c'era la macchietta del pensionato che borbottava mentre aspettava l'autobus e faceva la fila alla posta, e suscitava simpatia perché ricordava il vecchietto dei film western. Oggi è venuto meno ed è stato sostituito da nuove figure tutt'altro che simpatiche: quello che aggredisce i poveri, spesso rom, oppure quelli che aggredisce quelli che rovistano nell'immondizia, quello che chiama subito i vigili urbani quando qualcuno scrive sui muri o attacca un manifesto, quello che insulta chi chiede l'elemosina o lava i vetri delle macchine, quello che ha il telefono sempre pronto per chiamare i carabinieri e fare la spia quando qualcuno schiamazza o alza la voce. Per non parlare di quelli che cacciano dai mezzi pubblici chi secondo loro puzza o che comunque veste con abiti dismessi o dimessi. Però ci sono quelli che segnalano subito chi non paga il biglietto e chi magari occupa una casa, come se la gente facesse piacere lavare i vetri agli angoli delle strade, rovistare nelle immondizie o non avere un tetto per ripararsi dal freddo. È una cultura della delazione, e chi fa queste cose sono gli stessi, non si nascondano dietro il litino, che avrebbero segnalato chi scriveva via i nazisti da Roma o viva i partigiani. Infatti, nel silenzio più totale, vengono rastrellati gli extracomunitari, rinchiusi nei CIE e rispediti nell'inferno da cui sono scappati. Gli zelanti uomini in divisa, siccome applicano la legge, anche loro l'avrebbero fatto durante il fascismo, perché la legge è un totem. In pratica sono venuti fuori nuovi mostri, che sono il frutto di un'ingegneria politica che ha saldato la cultura intimamente fascista, profondamente razzista e classista con il politicamente corretto, che ha sdoganato il peggio di loro dando l'alibi politico dietro le belle parole, decoro urbano, legalità e sicurezza per fare tutto quello che desiderano. Gruppi di volontari puliscono i muri delle città o i parchi e i giardini. Comitati di quartiere si riuniscono contro gli schiamazzi della vita notturna, i cani che sporcano, le macchine in doppia fila, ma restano indifferenti davanti ai militari con il mitra ad ogni angolo della metropolitana e in ogni piazza della città. Gente che non può pagare la bolletta della luce o del gas, invece di prendersela con chi l'ha ridotta così, protesta per il nero che vende gli occhiali senza scontrino, senza permesso, all'angolo delle strade. Gente che si fa rapinare dallo Stato si scandalizza per il parcheggiatore abusivo, chiama il vigile, ma non si scandalizza per i parcheggi a pagamento, per le ZTL che gli impediscono di entrare in centro, per i divieti di accesso nella città degli dèi, e non percepisce affatto che tutto quello che viene definito dal denaro è un provvedimento di classe. Si è completamente persa la cognizione di cosa sia lo Stato, cioè il momento organizzativo di chi detiene il potere, e le oppresse e gli oppressi sono stati condotti a lavorare attivamente per chi attivamente li reprime, li controlla e li sfrutta. È fondamentale trovare il modo di uscire dal politicamente corretto, da quella gabbia comportamentale che ha inculcato nella mente delle persone i concetti di legalità e sicurezza, veri e propri strumenti di asservimento volontario. In questo passaggio storico epocale, in cui la borghesia transnazionale si pone come nuova aristocrazia, la legalità assume i connotati di un nuovo ipse dixit. Ciao!